Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ebbene sì, siamo partiti anche noi con la sigla natalizia di Salva Danaio. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati nella nostra trasmissione. Oggi ripartiamo naturalmente monitorando strettamente l'attualità. L'investimento in titoli di Stato da parte dei cittadini come contributo per dimostrare la fiducia che gli italiani hanno nel proprio paese, per aiutare il paese a dimostrarsi più affidabile di fronte al mercato e agli interlocutori internazionali in questo momento di difficoltà. Questa è l'idea che sta dietro al BTP Day, che oggi diventa Bot Day, un'iniziativa che nasce dall'appello di un signore cinquantenne toscano, un imprenditore responsabile di una società di leasing, il signor Giuliano Melani. Lo ricorderete bene perché se ne è parlato ovunque tantissimo e anche noi abbiamo richiamato spesso questa iniziativa. Cosa aveva fatto Melani? Ricordiamolo, aveva comprato un'intera pagina del Corriere della Sera, alla modica cifra si dice di circa 20.000 euro, proprio per diffondere un annuncio che poi è stato accolto, più che altro un appello, e rilanciato, accolto e rilanciato dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, da Borsa Italiana, da associazioni degli analisti e degli operatori finanziari, che per incoraggiare gli italiani ad aderire a questo, chiamiamolo così, movimento di moderno patriottismo, nella giornata del 28 novembre appunto hanno eliminato le commissioni per le sottoscrizioni di BTP sul mercato secondario. L'iniziativa, come vi dicevo, fa il bis nella giornata di oggi con un Bot Day che si riferisce all'asta di bot annuali con scadenza 14 dicembre, che saranno appunto emessi, che sono stati emessi all'asta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze questa mattina. L'asta peraltro è andata bene, poi ve ne racconterò i risultati. E comunque l'idea di acquistarsi il debito nel frattempo ha diviso gli esperti, i commentatori del nostro paese. È davvero una buona idea, è davvero efficace per rimettere in sesto il sistema economico, è solo un'operazione d'immagine? Dal 1997, vi do qualche cifra ad oggi, la quota che gli italiani detengono di debito pubblico italiano è passata dal 37% a qualcosa come il 13-14%. Noi cerchiamo di capire se questa tendenza potrà invertirsi e perché, ma soprattutto chiederemo a voi se avete partecipato, perché bisognava prenotare i titoli entro venerdì scorso, raccogliendo anche i vostri dubbi in merito agli investimenti sul titolo di Stato, sul settore obbligazionario. Con noi stamattina è tornato Giancarlo Magri, promotore finanziario di una grande banca italiana. Magri, buongiorno, bentornato. Buongiorno a lei, grazie. Abbiamo in collegamento telefonico Gianluigi Gugliotta, segretario generale di AssoSim, l'associazione appunto delle SIM, quindi dei, come dire, dei soggetti che intermediano prodotti finanziari. E, dottor Gugliotta, buongiorno. Molto banalmente sintetizzato il vostro ruolo, appunto l'attività della vostra organizzazione, buongiorno. Buongiorno a tutti. Anche AssoSim appunto è tra le figure e tra le organizzazioni che insieme ad ABI ha contribuito appunto a mettere in piedi questa iniziativa. Il collega del Sole 24 Ore, Vittorio Carlini. Vittorio, ciao, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, avete sempre l'opportunità di scriverci di chiamarci all'800240024, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666 al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, e ci siamo cadute anche noi, abbiamo aperto la pagina Facebook, quindi potete anche andare a curiosare l'aggiornamento che facciamo quotidianamente sulla nostra attività Salvadanaio. Appunto l'indirizzo è salvadanaio-radio24, quindi potete anche lì animare attraverso appunto il social network la conversazione e le vostre considerazioni appunto sui temi che affrontiamo quotidianamente. Diamo un'occhiata alla borsa. Ah no, prima di tutto, visto che l'ho citata, l'ho evocata, vediamo un po' come è andata quest'asta di titoli di Stato questa mattina. Il Tesoro assegnava bot annuali per 7 miliardi. Il Tesoro ha totalizzato richieste per oltre 14 miliardi di euro, per cui praticamente la domanda è stata quasi doppia rispetto all'offerta, e quindi è andata bene. In calo il rendimento lordo dei titoli appunto a 12 anni annuali, che si è attestato al 5,95%, e praticamente al netto della ritenuta fiscale il rendimento netto appunto per i titoli è del 5,16%, circa 16,90, qualcosa del genere. Per cui è andata bene, poi sentiremo appunto i nostri ospiti che cosa ne pensano. Bisogna vedere se dietro a questi 14 quasi miliardi di titoli richiesti ci siano stati anche molti piccoli risparmiatori che hanno così aderito alle Bot Day avevano tempo fino a, come vi ripeto, venerdì scorso. Giancarlo Magri, i suoi clienti che cosa hanno detto? L'hanno chiamata nei giorni precedenti appunto per chiederle di aiutarli a prenotare un lotto di botta a 12 anni in asta oggi? Devo dire che rispetto alla giornata BTP Day, dove c'era una certa sensibilizzazione, dove ho clienti che mi hanno chiamato per poter acquistare titoli senza fare commissioni, la giornata del Bot Day è andata poi sordina. Cioè io non ho avuto clienti che mi hanno chiamato per aderire a questa iniziativa. Perché sono un po' più tranquilli, sono meno preoccupati rispetto effettivamente a una ventina di giorni fa. Sembra passato un secolo da allora, perché abbiamo avuto il varo della manovra italiana, la reazione del mercato rispetto anche ai vertici di Bruxelles. Effettivamente dal 28 novembre ad oggi sembrano passati 10 anni. Beh, sembra che il mercato sia stravolto e sia cambiato in modo sostanziale. Poi da quello che succederà da qui a domani è un punto di domanda. Però insomma per questo giro i suoi clienti completamente tranquilli. Vittorio Carlini, dicevo un secondo fa, dal 28 novembre, da quando c'è stato il BTP Day, ed effettivamente erano un po' tutti spaventati, noi compresi, gli intermediari finanziari, c'è stata appunto questa voglia di organizzare questa iniziativa di patriottismo finanziario, che per la verità è stata anche un parecchio presa in giro da molti, non presa in considerazione per la sua validità appunto da altri. Anche noi abbiamo espresso molto spesso il nostro scetticismo, più che altro perché non riteniamo che sia corretto l'atteggiamento di chi suggerisce un investimento in qualunque tipo di prodotto perché viene fatto a sconto, perché per un giorno non si pagano le commissioni di intermediazione. Detto questo, però, ecco, effettivamente è vero che nel giro di 15 giorni è cambiato molto, ma lo spread è sempre alto. Sì, oggi guardavamo l'andamento dei rendimenti, lo spread è salito e uno si domanda, ma come mai nel momento in cui c'è un'asta che va abbastanza bene, perché poi le aste comunque sono i momenti in cui si rifinanziano gli stati, e c'è un calo del rendimento, poi lo spread sale. La risposta credo che sia abbastanza semplice, il discorso è che gli investitori istituzionali, che poi sono quelli che fanno il mercato, comunque non guardano evidentemente troppo alle scadenze brevissime, ma tengono a riferimento le scadenze un po' più lunghe, e lo spread è sul decennale, e quindi sul decennale e si guarda quelle che sono gli elementi più di struttura dei problemi. Quindi ok, c'è stata la manovra a Monti che è stata non ancora approvata, bisogna vedere poi il Parlamento come la delibererà. C'è stato questo accordo iniziale, questo bicchiere mezzo pieno, come è stato definito da molti analisti, dell'accordo di Bruxelles, e vedremo come verrà implementato. Comunque ci sono, se vogliamo poi ne parliamo dopo, dei passi secondo me importanti, e quindi però adesso ci si chiede anche sul fronte italiano soprattutto il tema della crescita. Evidentemente gli operatori parlano di questo, e forse su quello gli istituzionali si muovono con degli andamenti di spread che salgono. Peraltro gli spread sono saliti un po' in tutta Europa. Sì, sì, vedo qua proprio Francia... Marco Lombardo, il mio assistente, mi ha segnalato poco fa che la forbice per esempio tra Parigi e la Germania si è allargata a 123 punti, che sembra veramente una soglia ridicola rispetto alla nostra, però anche per la Francia comincia ad essere un livello fastidioso. Vittorio, bisogna sempre ricordarsi la dinamica di questi movimenti più che i valori assoluti. Se confrontiamo il valore di 453 punti base dell'Italia con quello francese, uno dice vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Però sono le dinamiche, cioè la Francia fino a pochissimo tempo fa aveva un differenziale se non dico nullo comunque molto basso, a tutto un tratto è salito. Ma qui il gioco è il discorso degli eventuali problemi che anche la Francia potrebbe avere con riferimento al tema del rating, e anche il cosiddetto effetto contagio di cui si è parlato moltissimo, dai paesi periferici ai paesi diciamo core dell'Unione monetaria, che sono ovviamente la Germania e la Francia. Qui c'è il tema dell'interconnessione dei mercati, che è uno dei temi diciamo importanti, di cui gli investitori, soprattutto retail, si dimenticano sempre. Vi do una cosa, un'indicazione curiosa, è un classico ormai che quando appena, un po' come i cani di Pavlov, no? Appena lo spread sale, le borse scendono, indipendentemente che sia giusto o sbagliato. Io ho guardato il grafico alle circa alle 11:21. lo spread italiano ha incominciato a salire, sono andato a vedermi il FTSE MIB alle 11.21 con precisione matematica ha incominciato a scendere. Perché le banche finiscono nel mirino degli investitori inevitabilmente per la questione del mark to market, che poi magari faremo, sì, Vittorio. Sì, diciamo che ci sono anche dei temi più di meccanismi automatici di cui ci dimentichiamo troppo, e di tecnologie, di prodotti finanziari che si basano su determinati livelli precisi che io definisco degli stupidi idioti, cioè sono dei meccanismi che non valutano se è giusto o sbagliato in quel momento individuare una variazione, però sono fissati. Perché? Perché gli investimenti sono interconnessi e quindi vengono messi dei livelli. Sì. Al di là del fatto che questi livelli poi siano sensati in quel determinato momento oppure no, ecco allora che molto spesso noi lo dimentichiamo, questi livelli che vengono rotti e arrivano le vendite. Ci sono molti portafogli che vengono costruiti sulla base di rilevazioni quantitative, sulla base di analisi tecnica, pertanto effettivamente guardano solo a quei parametri, si dimenticano dei fondamentali che forse adesso magari per certi aspetti non sono soddisfacenti, perché non c'è crescita, perché per tanti altri problemi, però effettivamente è giusto quello che diceva Vittorio, appunto qualche volta i mercati si muovono anche su altre logiche. Devo chiedere scusa perché i miei ospiti non me l'hanno detto, ho fatto per ben due volte un errore, credo di aver detto botta 12 anni invece che 12 mesi, non ve ne siete accorti? 12 mesi. 12 mesi. Beh, c'è un ascoltatore che sostiene che ho detto 12 anni, dice anche per due volte consecutive, comunque se mi fosse uscito anche una sola volta me ne scuso. Allora andiamo a Gianluigi Gugliotta, che è il segretario generale di Assosim. Ancora buongiorno dottor Gugliotta, quando c'è stato il BTP Day il 28 novembre è stata Borsa Italiana che ha potuto registrare alla fine di quella giornata la mole degli scambi che si era verificata sul MOT, il mercato dei titoli di Stato e delle obbligazioni della Borsa Italiana. In quel frangente appunto erano stati registrati quasi 87.000 contratti per un controvalore di circa 2,7 miliardi di euro. In questo caso saranno un po' gli intermediari che dovranno invece verificare come andrà questa operazione. Avete già qualche rilevazione, qualche movimento un po' più vistoso rispetto alle giornate precedenti? Beh no, per l'asta di oggi ancora purtroppo non sono in grado di fornire nessun dato, però insomma confermo quelle che sono state le analisi di quanti mi hanno preceduto questa mattina. Insomma, qui importante è valutare il dato tendenziale. Quindi è vero, sì, probabilmente il tasso al quale sono stati offerti questi bot oggi è leggermente più basso, però effettivamente si è determinata un'inversione di tendenza. Era 6,87 l'asta di metà di novembre, e che era raddoppiato rispetto a quella del mese precedente ancora, sì. Certo, quindi è vero, è sceso poco il rendimento, ma si è determinata un'inversione di tendenza. Probabilmente insomma possiamo anche constatare che la mera rinuncia da parte degli intermediari a quello che è il loro profitto non è stata sufficiente o meglio insomma dobbiamo constatare che non è questo che determina il successo o l'insuccesso di un'asta. Sì, anche perché ricordiamo che insomma lo zero sono 30 centesimi per un pacchetto di titoli investiti di 100 euro, quindi sono 3 euro per un lotto da 1000 euro, per cui effettivamente se uno deve fare un investimento che ha, come dire, il sapore patriottico e comprarsi 1000 euro di bot per risparmiare 3 euro, magari ci pensa anche un attimo, no Gugliotta, che dice? Beh, ovviamente sì, insomma questo poteva avere un senso quando i rendimenti erano sotto l'1%, ma ormai che raggiungono il 6% non è certamente questo. Poi c'è anche da dire che il decreto ministeriale fissa questi, le commissioni degli intermediari sono nella misura massima, quindi rimane comunque all'intermediario negoziare con il singolo cliente quelle che sono le commissioni poi che troveranno applicazione nella singola operazione, quindi c'è ampia concorrenza a questo riguardo Benissimo. Comunque insomma la cosa interessante che lei rilevava è che in ogni caso si è vista questa discesa del rendimento sotto il 6%, che è sempre molto alta per un titolo di Stato naturalmente a cadenza annuale, però insomma potrebbe essere anche l'inizio di una inversione di tendenza, chissà se è vero, perché insomma con gli spread almeno come stanno andando questa mattina ci sarebbe da fare un lungo ed articolato ragionamento anche su questo prospettico. Salva Danaio. Eccoci ritrovati in diretta questa mattina prendendo a spunto il Bot Day, che è la replica dell'operazione che si è già svolta il 28 novembre nel nostro paese, quando era la circostanza in cui i risparmiatori italiani, soprattutto i retail, potevano sottoscrivere sul mercato secondario BTP. Oggi invece, in occasione dell'asta del tesoro che c'è stata questa mattina e che si è conclusa anche piuttosto bene, i risparmiatori italiani avevano l'opportunità di sottoscrivere bot annuali 12 mesi. L'asta è andata bene, come dicevamo. C'è da dire che anche l'altra volta, quando abbiamo organizzato la trasmissione per monitorare l'andamento dell'operazione del 28 novembre, avevamo paura in qualche maniera di indurre a fare un'operazione piuttosto che un'altra i nostri risparmiatori, quindi è sempre molto difficile parlare a mercati aperti e suggerire o meno, o esprimere dei giudizi, appunto, perché chiaramente possono condizionare il comportamento di altri. Oggi siamo un po' più al riparo, perché comunque per chi avesse voluto aderire alle Bot Day ha dovuto fare la prenotazione presso il proprio intermediario venerdì scorso, quindi stasera o domani sapremo com'è andata questa operazione. Soprattutto capiremo se magari la media delle sottoscrizioni fatte è un po' più contenuta del solito, allora magari da lì potremmo immaginare, come ha fatto la Borsa Italiana il 28 novembre, che magari si è evidenziata una grande partecipazione di piccoli risparmiatori. Detto questo, che tipo di suggerimenti dare in termini generali ai risparmiatori che magari continuano ad essere molto affezionati, come lo erano in passato, al titolo di Stato italiano, ma hanno capito che è un prodotto di investimento non più esente dal rischio, lo hanno capito a loro spese, appunto, duramente nel corso degli ultimi mesi, visto che li abbiamo ossessionati tutti con lo spread, il differenziale di rendimento fra il nostro titolo decennale e quello tedesco. Stamattina con noi Giancarlo Magri, promotore finanziario, Vittorio Carrini, collega del Sole 24 Ore, Gianluigi Gugliotta, segretario generale di Assosim. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Intanto lo spread sale, siamo a 468 centesimi. Il rendimento sulla scadenza decennale italiana in questo momento oscilla intorno al 6,75%. Poi cercheremo di capire anche meglio che cosa è uscito dal vertice di Bruxelles di giovedì e venerdì, per capire che tipo di impatto sta avendo in borsa questa mattina, se quello che vediamo in borsa oggi è proprio attribuibile, riconducibile agli accadimenti, appunto, di Bruxelles. Però andiamo a qualche domanda di qualche ascoltatore. Sentirei Rita da Catania, perché è una super patriottica. Rita, buongiorno, non la sto prendendo in giro naturalmente. Buongiorno. Mi incuriosiva il suo ragionamento, sì. Buongiorno, io spero che nessuno mi voglia uccidere. No, allora, io pensavo, dato che devono contribuire i poveri pensionati a salvare l'Italia, io direi che anche i possessori dei BTP, dei bot, se rinunciassero per un anno agli interessi, cosa succederebbe? Cosa ne ricaverebbe lo Stato? Ah, Rita, beh, qui bisognerebbe mettersi a fare una simulazione e capire intanto che tipo di distribuzione c'è di questi strumenti di investimento fra gli italiani. Abbiamo già detto quanti ne hanno in senso globale come stock, però bisognerebbe capire magari nel giro di un anno che tipo di risparmio potrebbe avere lo Stato. Non lo so, Magri, ma le fanno mai i suoi clienti delle domande di questo tipo? Beh, una domanda di questo tipo non l'ho mai ricevuta. Bisogna capire anche quanti sono disposti, come la signora, a rinunciare al rendimento di un titolo, al flusso cedolare. Infatti. Però, insomma, adesso, Rita, non lo so, Assosim, Gugliotta, che cosa le suggerisce lo spunto della nostra ascoltatrice? Beh, sicuramente è molto patriottico, folcloristico, mettiamola così. Condivido con lei, però creerebbe delle problematiche anche in termini giuridici sui contratti, sui famosi SDS, questi strumenti finanziari che, come sappiamo, sono un po' all'origine di tutta questa crisi, perché si verrebbe a determinare probabilmente una situazione di semi-default. Bravissimo, infatti volevo arrivare lì, perché se uno Stato dà la comunicazione che non paga gli interessi sugli strumenti obbligazionari emessi negli anni precedenti, nei mesi precedenti, non è che può dire lo faccio per senso patriottico, perché gli italiani mi hanno chiesto di farlo. Si cela ben altro dietro a decisioni di questo tipo. Giusto, Gugliotta. Ovviamente, insomma, non sarebbe un segnale positivo che riceverebbero i mercati da un'azione del genere, da un'iniziativa del genere. Poi, insomma, avrebbero titolo i detentori di CDS ad attivare i loro contratti cosiddetti assicurativi sull'esposizione che hanno sul debito, determinando una serie di impatti a catena sulla stabilità stessa del sistema finanziario nel suo complesso. Tra l'altro quei CDS che non sono scattati per la crisi. Ti ho rubato il tema, Vittorio Carlini. No, volevo dire proprio quello. Che sono scattati sulla Grecia perché praticamente c'è una ristrutturazione, come dire, organizzata, pilotata, volontaria anche delle banche francesi e tedesche. Ma la battuta era, il discorso di Torgugliotta è assolutamente preciso e chiaro. Però guarda caso, quando poi ci sono i grandi interessi dietro, i trigger, come li chiamano, cioè le clausole per far scattare i CDS, non sono scattati. Mm-hmm. C'è stata una grande polemica da parte di molti operatori, perché poi il problema del non scattare i CDS è, se ne, al di là del fatto che io personalmente sono assolutamente contrario ai CDS, perché sono gestiti su mercati opachi e in qualche modo è una piccola quota che riesce a muovere grandi... Esattamente, la questione delle leve che non, che non sono mai scomparse, ecco, le leve finanziarie. Ciò detto, il tema è, ma nel momento in cui io, pur con un contatto che non condivido, comunque c'è, mi assicuro, però se poi scatta è come se io andassi a schiantarmi con la macchina e poi però l'assicuratore dice no, guarda, però la macchina si è rotta in un certo modo, la portiera comunque si muove, quindi non ti pago l'assicurazione. Questo è un tema che gli operatori hanno molto sentito. Si comportano proprio come dei veri assicuratori, non c'è niente da fare, trovano sempre... Non voglio dare niente considerazione contro gli assicuratori. Ciò detto... la battuta era, però è già successo, con la Grecia è già successo. Infatti. Giancarlo Magri, volevo ritornare da lei per capire, poi sentendo anche altri ascoltatori naturalmente, tra i suoi clienti ci saranno sicuramente coloro che sono ancora saldamente affezionati al titolo di Stato, che non hanno magari ben capito la dinamica di quanto è accaduto nelle ultime settimane, ma che comunque cercano un portafoglio estremamente prudente, un portafoglio di investimento che conservi completamente, come lo cerchiamo tutti ovviamente, il proprio capitale, e che dicono che per volerlo fare vogliono ostinarsi appunto all'investimento nel titolo di Stato, nel titolo governativo. Quindi se non si guarda l'Italia, lei adesso che cosa suggerisce di fare? Beh, allora, fondamentale al cliente far capire l'arco temporale, la scadenza di un titolo, perché la certezza assoluta del ritorno al capitale investito ce l'ho se compro un titolo di Stato. Se non va in default l'Italia, credo che sia una cosa abbastanza improbabile. Se mantengo il titolo fino a scadenza, il mio capitale investito lo riporto a casa. Poi se uno vuole avere massima tranquillità, oggi l'alternativa è fare titoli bund tedeschi, dove il rendimento siamo al 2% sul decennale e sulla scadenza 5 però anni anche siamo... lì, insomma, con questi rendimenti così rasoterra vale la pena, cioè, dipende se il cliente è disposto a, per avere una maggior tranquillità, a rinunciare a una parte di rendimento che oggi viene offerta sui titoli di Stato italiani. Cioè, fondamentale fare un confronto col cliente, mettere sul tavolo tutte le opportunità e poi gestire con certa coerenza, quindi con una convinzione la scelta, e portarla fino alla scadenza, perché se uno oggi compra un titolo a 5 anni, un CCT che oggi l'Euribor 6 mesi più 0,80 il 15 dicembre 2015 oggi quota 83-84, chi l'ha comprato a giugno di quest'anno l'ha pagato a 99, si trova con una minusvalenza di 15 punti. Se questo titolo comunque viene portato alla scadenza e non ci sono dei problemi sul debito italiano, io i 100 euro investiti li riporto a casa. Mediamente risparmiatori che segue lei acquistano un BTP per portarlo a scadenza oppure per, non lo so, per altre ragioni? Cioè, allora, mediamente viene portato alla scadenza. Se poi in una situazione come questa io ho ribilanciato alcuni portafogli allungando la duration del portafoglio, cioè allungando le scadenze, cercando di portare a casa determinati rendimenti che fino a un anno fa erano impensabili. Allora, volevo sentire magari un altro ascoltatore, poi con Gugliotta volevo anche ritornare a due o tre come dire, punti legati all'operazione di oggi, al Bot Day, perché abbiamo spiegato più volte e lo abbiamo spiegato anche molto chiaramente nella puntata del 28 novembre che oggi non si pagano le commissioni di intermediazione per la sottoscrizione di un pacchetto di bot prenotati già venerdì scorso, però se un risparmiatore avesse voluto oggi per la prima volta in vita sua fare un'operazione di questo tipo, acquistare titoli di Stato italiani, ricordatevi che avreste dovuto aprire anche un deposito titoli e questa non è un'operazione gratis, e poi c'è da mantenere anche il conto titoli che si viene ad aprire oggi, lo si è fatto appunto venerdì, anche questa non è un'operazione gratuita, cioè la gratuità legata al bot day o al BTP day, chiamatelo come volete, è proprio strettamente attinente all'operazione di oggi. Salva Danaio. Tra l'altro, proprio relativamente al discorso che stavo facendo prima di andare in pausa, era pronta anche una domanda di un ascoltatore del quale non mi ero accorta. Nicola da Ravenna, buongiorno. Buongiorno, esatto. La domanda era proprio quella, ha già anticipato la risposta. Però a questo punto chiedo una cosa successiva. Sì. Il conto titoli ha comunque un costo che, se non ricordo male, è abbastanza alto annualmente, soprattutto se supera una soglia dei 50.000 euro, se non sbaglio. C'è l'imposta di bollo che è stata rimodulata per l'ennesima volta, Nicola, c'è insomma tutta un'organizzazione della tassazione che forse adesso, se abbiamo tempo, le rispieghiamo. Quindi? Niente, quindi dico che se avessimo veramente così bisogno che tanti piccoli risparmiatori si spostino nel comprare questi bot credendo di aiutare il proprio paese, sarebbe un bene che i costi fossero, se non annullati, molto ridotti, anche per quel che riguarda la tenuta di un conto titoli, ecco. Nicola, lì, ma guardi, si ricordi sempre, poi magari lo chiediamo anche al promotore finanziario, ma adesso lo chiedo anche a Gianluigi Gugliotta, si può sempre negoziare con l'intermediario, non è che ci sono dei costi obbligatori, come dice, io lo dico sempre, il mio amico Marco Fratini, che è caporedattore alla 7, l'autore di Vaffanbanca, Vaffancrisi e quant'altro, la banca non è una chiesa, ma è un negozio, pertanto si può negoziare. Gianluigi Gugliotta, sì, sicuramente si negozia tutto in banca, l'abbiamo detto anche le commissioni di sottoscrizione, quelle che oggi, alle quali oggi hanno rinunciato gli intermediari, sono fissate solo nel tetto massimo dello 0,3%, poi sono negoziabili. Però io credo che i costi cui faceva riferimento l'ascoltatore qui non siano tanti quelli richiesti dall'intermediario, quindi dal depositario. No, questi sono quelli nuovi chiesti dallo Stato, esatto. Ecco, appunto, è l'imposta che è stata introdotta già dal governo Berlusconi prima che ora Monti estendesse, oltre che sul deposito titoli, anche sui depositi di liquidità. Si tratta di una mini patrimoniale, indubbiamente, che a nostro giudizio. Sì, Gugliotta. Può determinare degli effetti distorsivi nella competizione tra intermediari a livello internazionale, perché al fine di evitare queste imposte ben potrebbe un risparmiatore o un investitore trasferire all'estero le sue disponibilità o appunto operare sui dall'estero. Potrebbe, ma senza per questo necessariamente. Non ci dia questo suggerimento indiretto, Gugliotta, perché qua oggi sennò mi scoppiano i centralini. Va bene, detto questo. No. A Nicola suggeriamo di monitorare attentamente l'evoluzione della tassazione appunto sui prodotti di risparmio. Magri, magari mi può aiutare lei ricordando un po' che cosa è successo adesso, a parte il fatto che i bot sono sempre tassati al 12,5%, lo saranno anche a partire dal 1 gennaio, quando invece gli altri prodotti di investimento modificheranno la loro tassazione. Diciamo che il 12,50 vale per tutti i titoli di Stato ed equiparati, quindi dovrebbero essere compresi anche i titoli di Stato esteri, dal Bund tedesco agli OTI francesi, mentre la tassazione passa al 20% per tutti gli altri emittenti, quindi ragioniamo tutte le obbligazioni emesse dalle banche, obbligazioni emesse da società corporate tipo Eni, Enel, la tassazione passa al 20%. Benissimo, invece per quello che riguarda l'altro prelievo di cui Nicola parlava, è stato citato anche da Gugliotta, adesso praticamente... La nuova normativa va a disporre che questa tassazione, la mini patrimoniale, questa è stata mini chiamata. Patrimoniale prima colpiva solo i dossier titoli, i depositi titoli. Oggi va a colpire anche tutta quella parte che sono le polizze assicurative che erano escluse, i fondi comuni di investimento che erano messi su un deposito accentrato unico, e quindi adesso bisogna capire anche i decreti attuativi come sarà evasa questa imposta. Non i conti di deposito, volevo appunto ricordarlo perché alcuni ascoltatori ce lo hanno già chiesto e continuano a chiedercelo. Vittorio, ti leggo questa mail di Giulia che è fantastica. Dottoressa Rosciani, invio la mia idea per aiutare l'Italia, in cui ancora credo e voglio avere fiducia. io non posso comprare una pagina del Corriere, mi affido a Radio 24 che è la mia migliore amica. No, aspetta, che volevo andare più in giù. In sostanza l'ascoltatrice dice: invece di chiamarli botte, chiamiamoli, che ne so, BRI, Buoni Risanamento Italia, da acquistare in proporzione alle proprie capacità, cosa che spero abbiano fatto anche in questi giorni i piccoli risparmiatori, che non con l'idea un po' eccessiva di fare e prestare chissà quale aiuto al nostro paese, magari hanno investito molto del proprio risparmio. Insomma, spero che abbiano fatto tutti il passo secondo le proprie capacità, secondo la propria gamba. Allora, la indicazione dell'ascoltatrice è lodevole. Io banalmente dico sempre una cosa: prima di tutto bisogna guardare il proprio rischio rendimento, cioè bisogna sempre tener conto del quello che è la propensione al rischio dell'investitore, e in riferimento a questo anche quanto appunto poi si vuole avere come rendimento, perché è banale dirlo, ma ricordiamolo sempre: aumenta il rischio, aumenta il rendimento. Non è che sui mercati finanziari qualcosa in più ti viene dato e ti viene regalato, è perché evidentemente l'investimento a cui tu vai incontro è un qualcosa di un po' più rischioso. Ciò detto, io non voglio sminuire, io sono contento che oggi l'asta sia andato bene e non voglio entrare in discussioni di dire contro il sciovinismo oppure no. Rendiamoci conto però di una cosa, ecco, questo è importante sottolinearlo. Purtroppo, ahimè, i mercati funzionano così: non è che l'acquisto del retail è così importante e incide così tanto su quelle che sono le dinamiche poi fondamentali per salvare o non salvare l'Italia. Lo stiamo vedendo adesso, l'hai detto tu prima, lo spread, che è purtroppo diventato un indicatore fondamentale in questo momento con riferimento all'andamento dei mercati azionari in generale, e sta salendo, e uno si chiede: ma come, abbiamo comprato, abbiamo fatto lo sforzo patriottico e questi continuano? Perché evidentemente, lo dicono i numeri, non è così rilevante. I grandi movimenti sui titoli di Stato, sui bond, li si fa non sul... li si fa sui mercati obbligazionari telematiche, ci mancherebbe altro, però poi i grandi movimenti li si fa anche sugli over counter, lo si fa sulle piattaforme tipo Bond Vision, li si fa piattaforme tipo quelle di Bloomberg, quelle di Reuters. Cioè, voglio dire che gli spostamenti che determinano quelle che sono poi le situazioni reali e concrete di difficoltà o di miglioramento della situazione, purtroppo, bisogna dirlo, non è certamente l'acquisto del retail, non è il bot day, non è il BTP day. Va bene, però insomma, di fatto queste operazioni ormai ci sono state, le abbiamo seguite perché era appunto corretto anche farlo nei confronti dei nostri ascoltatori. Vorrei sentire Paolo da Livorno, ma deve farci la sua domanda in 10 secondi. Paolo, buongiorno. Paolo? Paolo, dov'è finito? Eccomi. Rapidissimo, che stiamo chiudendo. Sì, volevo dire, che senso c'ha comprare, prenotare i buoni del tesoro BTP a 100, con anche se c'è la facilitazione dell'abbattimento di questa piccola spesa, quando invece sul mercato si possono comprare tantissime scadenze, tantissimi BTP, BOT sottopagati, e quindi La sento malissimo. Io non so se lui voleva arrivare a dire che magari sul mercato secondario si possono trovare occasioni di investimento un po' più appetitose, sempre riferito a titoli di Stato. Ancora, quali sono i livelli massimi di rendimento che possiamo trovare? Hai qualche foglio, Vittorio Carlini, sotto gli occhi? Non so, lui addirittura citava sul mercato secondario titoli all'8%. Ma certamente ci saranno dei rendimenti. Io adesso, il decennale italiano era attorno al 7%, 6,75 stamattina, sì. Ci sono dei rendimenti che vanno con riferimento a situazioni di maggiore difficoltà, quindi ci possono trovare. Il problema però è, come diceva il nostro collega qua promotore in studio, è quello: innanzitutto bisogna avere una capacità di acquistare i titoli giusti, e poi non è semplice. Poi c'è un discorso, soprattutto ricordatevelo, di liquidità. State attenti, perché è facile entrare in situazioni da cui poi è difficile uscire. Mi è piaciuto molto il discorso di prima: ricordatevi sempre il discorso della scadenza. Ricordate, se voi volete arrivare ad avere questo titolo di Stato, volete tenerlo, è un conto, perché in quel modo voi avete indietro dietro il vostro capitale. Attenzione a non comprare delle durate più lunghe, magari avete bisogno di pagare la retta della scuola ai vostri figli e dovete poi uscirne e avete delle perdite in conto capitale. Non è un conto corrente il titolo di Stato, adesso, per essere molto banali. Comunque ci ritorneremo sicuramente su questi argomenti. Grazie a Giancarlo Magri, Vittorio Carlini e Gianluigi Gugliotta per essere stati con noi. Torniamo domani, buona giornata.